tutti i giorni e più volte al giorno io ricevo richieste di persone che chiedono una benedizione particolare. Io non la nego a nessuno, però, consapevole di quello che Gesù aveva chiesto a quell'uomo che chiedeva un intervento del Signore, cui Gesù gli aveva detto: ma tu credi? Quell'uomo aveva risposto: Signore, io credo, ma tu aumenta la mia fede. Io, prima di dar la benedizione, chiedo a tutte queste persone: ma tu credi, tu preghi? E la risposta è invariabilmente: sì, tutti i giorni. E poi, parlando, salta fuori che magari non vanno a messa, la loro preghiera è solo una preghiera episodica in cui chiedono. Allora io faccio un'altra domanda adesso. Non chiedo più se tu preghi, ma chiedo: ma tu ascolti Gesù? E la gente resta spiazzata. Come ascolto? Eh sì, Gesù ci parla nel Vangelo, tu lo leggi il Vangelo? E lì le risposte sono impacciatissime. Io credo che il Vangelo di oggi, Matteo 7, 21, 29, ci dice esattamente questo, che noi non solo dobbiamo ascoltare il Vangelo, ma viverlo. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a uno che costruisce la sua vita su terreno solido e non su terreno fragile e cedevole. Cari amici, noi dobbiamo ascoltare, altrimenti assomigliamo a quelli che, quando sono al telefono, parlano solo loro. Ci sono certe persone che tu non riesci a interromperle per dire la tua, e appena cominci a dire una parola ti interrompono e vanno avanti. Loro devono dire. Quante volte, amici, anche noi ci rivolgiamo al Signore in questa maniera. Noi abbiamo da dire, abbiamo da chiedere, abbiamo da domandare, abbiamo da pretendere, da esigere, usiamo tutti i verbi che volete, ma non abbiamo questo verbo, ascoltare. Eppure i nostri pastori, dal Papa al nostro Vescovo, ci dicono: in questa situazione di pandemia, in questo dover per forza ridurre le nostre attività, questo è un tempo adatto per ascoltare. Ma per ascoltare bisogna essere sintonizzati. Perché se il Signore trasmette, ma io tengo spento il mio apparecchio ricevitore, oppure lo tengo sintonizzato su altre stazioni, il Signore può così continuare a trasmettere. E infatti, il Signore parla nel Vangelo, parla attraverso i Suoi ministri, parla attraverso la tua coscienza, parla attraverso le situazioni, e noi siamo smarriti perché non siamo capaci di ascoltare. Ti preghiamo, Madonna Santa, tu che sei stata colei che ha poco parlato ma che ha tutto ascoltato, insegnaci a metterci di fronte al Signore che ci interpella e ci parla in molti modi con la tua umiltà. Fate tutto quello che vi dirà, ha detto ai servi per il miracolo di Cana.